GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. L'omicidio di Limena in provincia di Padova, udienza di convalida del fermo di Alessio Battaglia, il quarantenne triestino accusato di aver ucciso Franco Bernardo Bergamin, 80 anni, nell'appartamento dove convivevano e di averne occultato il cadavere. Battaglia è stato rintracciato l'altra notte in un appartamento a Monfalcone. Oggi sciopero generale nazionale del settore pubblico e privato con possibili disagi nei trasporti via treno, aereo, ma anche per chi si dovesse spostare in autostrada. Altra protesta, quella dei lavoratori U-Blox dello stabilimento di Sgonico, che assieme ai delegati di altre realtà triestine in crisi, tra cui Flex, ora Adriatronics e Tirso, hanno tenuto stamane un presidio in Piazza Unità. Oggi è l'8 marzo, festa delle donne, ma anche di scioperi che coinvolgono il mondo del lavoro femminile. A Villesse questa mattina la protesta delle lavoratrici di Europromos. Sentiremo la storia di Firoza, una donna afghana scappata dall'Afghanistan e arrivata in Italia con un corridoio umanitario a Herat. Con la sua associazione negli anni ha dato la possibilità a migliaia di donne di praticare sport come cricket e pallavolo. Nel contesto delle celebrazioni per il decennale della promulgazione dell'enciclica Laudato Si di Padre Francesco a Trieste, al seminario vescovile, il vescovo Monsignor Enrico Trevisi ha introdotto la conferenza intitolata Spunti per una spiritualità ecologica. Imprese agricole rosa in aumento anche in regione, ne abbiamo incontrate alcune in fiera a Pordenone in occasione dell'ultimo fine settimana di Orto Giardino e Cucinare. Cresce l'attesa a Trieste per l'arrivo di uno degli spettacoli più iconici del circo più famoso del mondo, il Cirque du Soleil. Allegria nel New Light arriverà in città con il suo grande tendone bianco il 13 giugno, già 20.000 biglietti venduti per il mese di repliche previste. Le 12:32 minuti, questi titoli. Ancora un buongiorno da Giorgio Bearz e Maria Spezia a condurre questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di sabato 8 marzo, festa della donna. Auguri a tutte le donne in ascolto. In apertura dunque la cronaca, torniamo a parlare dell'omicidio di Limena in provincia di Padova. Questa mattina infatti c'è stata l'udienza di convalida del fermo di Alessio Battaglia, il quarantenne triestino che è accusato di aver ucciso Franco Bernardo Bergamin, 80 anni, nell'appartamento dove i due convivevano, di averne poi occultato il cadavere. Battaglia è stato rintracciato l'altra notte in un appartamento a Monfalcone. Si è conclusa da poco nella casa circondariale di Padova l'udienza di convalida davanti alla GIP Laura Alcaro. Alessio Battaglia ha sostanzialmente confermato quanto aveva dichiarato l'altra notte nell'interrogatorio investigativo condotto dal sostituto procuratore Marco Brusegan, che ne aveva ordinato il fermo per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Battaglia ha ribadito che la notte del 22 febbraio ha avuto con Franco Bergamin un litigio che è degenerato portando alla morte dell'ottantenne, osso del collo spezzato, chiarirà l'autopsia. Preso dal panico lo avrebbe nascosto avvolgendolo in due sacchi dell'immondizia poi sigillati all'interno di un armadio e avrebbe poi lasciato l'appartamento che condivideva con la vittima a Limena per tornare nella sua regione e trovando ospitalità a Monfalcone a casa di un amico dove giovedì sera i carabinieri lo hanno arrestato, ma secondo gli investigatori per un paio di giorni era rimasto nel luogo del delitto simulando normalità dopo i rumori che quella notte avevano allarmato i vicini. E rimangono ancora molti i punti da chiarire prima di considerare chiusa l'indagine. Da Padova, Antonello Profitta, TGR Veneto. Oggi è in calendario lo sciopero generale nazionale del settore pubblico e privato con possibili disagi nei trasporti via treno, aereo, ma anche per chi si dovesse spostare in autostrada. A incrociare le braccia sono i sindacati autonomi, tra cui SLAI Cobas, CUB, USB, ADL Cobas. Fino alle 21 di oggi i treni potranno subire cancellazioni o variazioni per lo sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia. Per il trasporto regionale saranno garantiti i servizi essenziali dalle 18 alle 21. Altra protesta, quella dei lavoratori U-Blox dello stabilimento di Sgonico, che assieme ai delegati di altre realtà triestine in crisi, tra cui la Flex, che ora si chiama Adriatronics, e Tirso, hanno tenuto stamane un presidio in Piazza Unità d'Italia. I circa 200 dipendenti, lo scorso 14 gennaio, avevano ricevuto un messaggio di posta elettronica dalla multinazionale svizzera in cui si annunciava la chiusura del suo ramo di prodotti cellulari, cui è seguita poi la messa in liquidazione dell'attività ed è stata aperta la procedura di licenziamento collettivo. Qualche donna aveva in mano una mimosa, davanti uno striscione. No ai licenziamenti, il lavoro è un diritto, firmato USB, la sigla di base che emana la rappresentanza di U-Blocks, dove si fa ricerca e sviluppo per schede elettroniche. Quasi 200 dipendenti nello stabilimento triestino, di cui tre quarti laureati in materie tecnico-scientifiche, professionalità di alto livello che potrebbero far gola a qualche investitore dopo l'improvvisa fuoriuscita del gruppo svizzero. Interlocuzioni sono in corso, conferma l'assessore regionale del lavoro Alessia Rosolen. La settimana prossima un incontro al Ministero per le Imprese Meridionali in Italia, appuntamento che la regione ha ottenuto dopo averlo chiesto, anche se non è un tavolo vero e proprio perché l'azienda è sotto la soglia dei 250 addetti prevista dalla normativa. Dalla seconda parte di aprile l'azienda potrà inviare le lettere di licenziamento dopo l'avvio della procedura il mese scorso, seguito a una comunicazione via email al fianco dei dipendenti U-Blocks, una rappresentanza di lavoratrici della Tirso, altra azienda triestina in difficoltà, con una cassa integrazione in essere. Alle due realtà si aggiunge l'ex Flextronics, in tutto 800 posti in bilico di fondamentale importanza per l'industria triestina. In tutti e tre i casi la regione lavora a delle soluzioni. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Oggi è l'8 marzo, festa delle donne, ma anche di scioperi che coinvolgono il mondo del lavoro al femminile. A Villesse questa mattina si è tenuta la protesta delle lavoratrici di Europromos. Scioperano per un salario più dignitoso, per un riconoscimento del lavoro domenicale, per avere un'indennità per il turno spezzato e per ottenere un bonus natalizio per fare fronte alle emergenze. Sono le lavoratrici che operano in appalto per una ditta di pulizie presso il centro commerciale di Villesse, un marchio riconosciuto in tutto il mondo. Lo fanno nel giorno della festa della donna, ricorrenza che contrasta con la loro condizione lavorativa. Alla fine del mese quant'è la busta paga? Diciamo sulle 15 ore sono sui 400 euro più o meno. Se uno fa un altro lavoro ci sono anche le tasse con doppio lavoro per presentazione del 730, quindi in realtà, visto che siamo qua la maggior parte da 10 anni, sarebbe meglio magari avere un lavoro completo direttamente in un posto. 7,47 euro l'ora è la paga base prevista nel contratto nazionale. Da 28 lavoratrici oggi ne sono rimaste 17. Quasi tutte prestano servizio da molti anni presso il centro commerciale, sotto le diverse aziende che di volta in volta hanno in appalto le pulizie. Sergio Zulian, ADL Cobas. Noi chiediamo delle paghe dignitose sostanzialmente, quindi l'aumento della paga base, che è vergognosa, 7,47 euro lordi l'ora. Le maggiorazioni per il lavoro la domenica, il buono pasto, l'indennità per il turno spezzato. Chiediamo insomma la dignità per queste lavoratrici. Faccio 25 ore settimanali, ma arrivo su una paga di 750 euro e nel complesso nella vita è un po' duretta. Villesse, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. E nella giornata dell'8 marzo, festa della donna, sentiamo ora la storia di Firoza, una donna afghana scappata dall'Afghanistan e arrivata in Italia con un corridoio umanitario a Herat. Con la sua associazione negli anni ha dato la possibilità a migliaia di donne di praticare sport come il cricket e la pallavolo. Abbiamo avuto tanti programmi per alzare la voce di donne ogni volta. Fino al giorno dell'arrivo dei talebani. Quel giorno io sono stato con i miei colleghi in giardino di mio ufficio per preparare un bel programma per salute di donne, che in quel momento abbiamo sentito la voce dei firing, che i talebani sono arrivati. E prima cosa che loro hanno fatto è esplosato il mio ufficio. In Afghanistan sono rimasti il marito e i 5 figli. Firoza spera in un ricongiungimento familiare. Il più piccolo non vuole più andare a scuola per paura delle punizioni corporali. Alle bimbe non è più permesso frequentare dopo la terza elementare. Loro vivono in buio, tutte le donne dell'Afghanistan vivono in buio, perché solo loro stanno in casa. In Friuli, grazie a Confartigianato e Caritas, trova un lavoro prima in una cioccolateria, poi come lavapiatti. Frequenta un corso di aiuto cuoco al Civiform. Oggi lavora in una comunità per minori stranieri non accompagnati. Chiede di non abbandonare le donne in Afghanistan, ma anche tutte quelle che sono già qui, in Italia. Le nostre donne che sono arrivate qua, per tanti motivi, sono ancora chiuse a casa, qua in Italia. Ancora loro hanno questa paurezza del nostro paese, non riescono a uscire da sola. Io vorrei fare tante attività per loro, per dire che questo mondo è un po' diverso. Qua c'è pace, possiamo uscire. Cividale del Friuli, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono le 12.40, passiamo al meteo e cielo poco nuvoloso sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11 a Trieste, 11 gradi e mezzo, Pordenone 12, Gorizia 15 gradi, Udine 15 gradi e mezzo. In area montana, Piancavallo 8 gradi e mezzo, Tarvisio 10, Forni di Sopra 11 gradi e 5 decimi, Tolmezzo 12, Sappada 4 gradi. In quota su Monte Lussale, sul Monte Zoncolan 5 gradi, sulla costa Grado 10, a Legnano 15 gradi. E queste le previsioni dell'ARPA per la regione. Nel pomeriggio e in serata avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso con venti di brezza. Domani al mattino cielo poco nuvoloso, nel pomeriggio variabile, dalla sera coperto con piogge, nella notte verso lunedì. Nel contesto delle celebrazioni per il decennale della promulgazione dell'enciclica Laudato Si di Padre Francesco, a Trieste, al seminario vescovile, il vescovo Monsignor Enrico Trevisi ha introdotto la conferenza dal titolo Spunti per una spiritualità ecologica. Una spiritualità ecologica in cui si mette in gioco il proprio stile di vita e le proprie convinzioni, in nome del rispetto dell'ambiente e non solo, il tutto visto dall'ottica di un cristiano. È il tema al centro dell'incontro organizzato al seminario di Trieste, che ha come ispirazione l'enciclica Laudato Si, scritta da Papa Francesco 10 anni fa. Un riferimento importante, come fa notare il vescovo di Trieste Trevisi, in un momento di apprensione per la salute del Papa. Per un cristiano il rapporto con l'ambiente è il rapporto con il creato, prima di tutto, ma anche con le creature tutte. Per questo, viene fatto notare, non è possibile dividere la questione ecologica da quella sociale. Come sottolinea il vescovo, per queste cose serve uno sguardo di gratuità e gratitudine, in cui la sobrietà non significa rinuncia, ma moltiplicazione, intesa come moltiplicazione del tempo, delle relazioni, della capacità di godere della bellezza della natura. Gran parte dell'incontro è dedicata alle riflessioni del frate francescano Giuseppe Maffeis, che nella sua comunità di Varazze, a Savona, in Liguria, ha stabilito una comunità Laudato Si per riformare gli stili di vita in ottica ecologica, in cui promuove gruppi di acquisto solidale e punta a una comunità energetica rinnovabile, il tutto invitando a cambiamenti nelle abitudini quotidiane, come quelle per esempio alimentari. La prima cosa che dovrebbe fare un cristiano nel consumo, dice, è quella di informarsi e chiedersi se ciò che sta acquistando ha un costo giusto, che non riguarda solo il prezzo ma tutti i costi generati nella sua produzione, dal rispetto per l'ambiente a quello per i lavoratori e a quello per la salute. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Lunedì 10 marzo si terrà l'assemblea elettorale dell'Università di Udine in vista dell'elezione del decimo rettore dell'Ateneo friulano. Succederà Roberto Pintoni, in carica fino al 30 settembre. Il nuovo rettore si insedierà il 1 ottobre e guiderà l'università per i prossimi 6 anni, fino al 2031. Nell'assemblea i candidati esporranno i propri programmi e risponderanno ai quesiti posti dal corpo elettorale, composto da docenti, ricercatori, personale tecnico amministrativo e consiglio degli studenti. Le candidature vanno presentate entro il 12 marzo, prima dell'inizio delle votazioni, e dopo la prima tornata, che si terrà il 19 marzo, entro il 26 marzo. Finora i candidati sono due: la docente Fabiana Fusco, ordinaria di glottologia e linguistica, direttrice del Dipartimento di Lingue e Letterature, Comunicazione, Formazione e Società, e il docente Angelo Montanari, ordinario di informatica presso il Dipartimento di Scienze e Matematiche, Informatiche e Fisiche, delegato per il Centro Polifunzionale di Pordenone. Imprese agricole rosa in aumento anche nella nostra regione. Ne abbiamo incontrate alcune in fiera a Pordenone in occasione dell'ultimo fine settimana della rassegna Orto Giardino e Cucinare. Nell'ultimo fine settimana di Orto Giardino in contemporanea al Salone dell'Enogastronomia Cucinare si distinguono le tante imprese al femminile. In apertura di giornata, ad esempio, una apicoltrice e un'imprenditrice agricola hanno accompagnato visitatori e visitatrici in fiera a Pordenone alla scoperta del miele e delle erbe officinali. Marilina Ongaro, imprenditrice agricola. Nell'agricoltura la presenza femminile è in forte crescita. Questo è dovuto, penso, alla grande sensibilità delle donne verso la multifunzionalità. Infatti le nostre aziende non si focalizzano solo su un focus, ma sono proprio multifunzionali, quindi c'è agricoltura in senso stretto, ma accoglienza, fattoria didattica, trasformazione, e quindi è un'apertura a tutti. Federica Piovesana, apicoltrice. Queste imprese secondo me hanno un di più, perché noi ci mettiamo del nostro, cerchiamo un po' di andare incontro anche alle esigenze, basta vedere anche le fattorie didattiche, e andiamo incontro alle famiglie, organizziamo i centri estivi, facciamo conoscere tutte le nostre attività, e quindi anche i bambini riescono a capire l'importanza, insomma, di questi lavori, e ne rimangono affascinati. Sono in crescita le imprese gestite da donne in agricoltura, rappresentano un'azienda su tre. Jessica Celant Casara. Noi ci dedichiamo da questa attività da circa una ventina d'anni. È una generazione, una tradizione praticamente di famiglia. Abbiamo una malga e le difficoltà, diciamo, che incontriamo negli ultimi anni è proprio la burocrazia. Questa è la nostra più grande difficoltà. Le soddisfazioni invece sono proprio questo rapporto che noi abbiamo, contatto proprio fondamentalmente con quella che può essere la natura, quindi della montagna e poi di conseguenza quello che riusciamo a trasformare. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Nelle prossime settimane prenderanno il via Udine i lavori preliminari per una significativa modifica della viabilità tra via Cusignacco, piazzale Unità d'Italia e via Ciro di Perse, che servirà a migliorare la sicurezza del traffico, migliorando la funzionalità della rotatoria, aumentando la disponibilità di parcheggi nelle immediate vicinanze del centro storico. In particolare la nuova viabilità prevede che da via Cusignacco si acceda alla rotatoria di piazzale Unità d'Italia con l'eliminazione del marciapiede. Non ci sarà perciò più necessità di svoltare verso via Ciro di Perse per immettersi in via Tullio. Una volta ultimati i lavori, per gli utenti che giungeranno da via Cusignacco, sarà possibile entrare in rotatoria e proseguire verso via l'Europa Unita e la stazione, oppure prendere la prima uscita in direzione di via Tullio. Udine ha una nuova rete Wi-Fi gratuita a disposizione di cittadini e turisti. La nuova rete è un progetto della regione che consente di navigare sulla rete internet nelle aree cittadine coperte dal servizio Wi-Fi. È già stata attivata in alcuni luoghi pubblici della città e progressivamente sarà estesa a un elenco di siti che vengono particolarmente frequentati in diverse aree indoor e outdoor della città. La nuova infrastruttura digitale offrirà un accesso libero e gratuito, garantendo una navigazione fino a 50 GB di traffico giornaliero per sessioni della durata massima di 18 ore. Nessun cibo è proibito, la dichiarazione di Giulia Biondi, docente di nutrizione all'Università di Camerino e personalità del mondo dei social network con all'attivo oltre 700.000 follower. Per spiegare come bilanciare i pasti, Biondi interverrà alla fiera Cucinare a Pordenone, all'arena Pordenone with Love, alle 16. L'abbiamo intervistata per chiedere se è proprio vero che nessun cibo è proibito quando si vuole controllare la linea. Nessun cibo è proibito perché lo dicono le linee guida della sana alimentazione, che sono il documento ufficiale per noi italiani per mantenerci in salute. La prevenzione viene proprio attraverso ciò che mangiamo e non è nessun cibo proibito proprio perché nelle giuste dosi possiamo contemplare tutto, anche quello che siano magari quei dolci che pensiamo ci facciano ingrassare, invece no, è l'eccesso calorico, gli eccessi alimentari che portano ad un aumento di peso e invece sapendoci regolare magari anche nella normalità, nella quotidianità, assaggiando insomma giuste quantità di cibo, insomma realizzando dei piatti che siano al nostro fabbisogno, nessun girovita aumenta se non andiamo in surplus calorico, anzi evitiamo quando poi invece tiriamo troppo la cinghia di perdere il controllo nel momento in cui ci troviamo davanti quell'alimento al quale abbiamo dovuto rinunciare per troppo tempo. Non si rischia o degli scompensi dal punto di vista nutrizionale oppure di avere fame, perché se io mangio un po' di dolce che è molto calorico, poi però insomma il mio stomaco non è soddisfattissimo di aver mangiato così poco. È proprio questo invece la cosa che uno pensa, invece è proprio l'opposto, perché attraverso una dieta più varia ed equilibrata e bilanciata che noi non abbiamo bisogno neanche di nessun tipo di integrazione. Ci sono frequenze e quantità delle linee guida della sana alimentazione, quindi quello che siano magari le quantità di pasta, di dolci, di pane, pesce, uova, quindi nessun alimento, infatti non dovendo eliminare nulla, non andiamo proprio incontro a quello che sia una carenza di nutrienti. E il dolce, il problema ad oggi è che non sappiamo educarci a delle giuste quantità, ma se per esempio prendiamo in considerazione un cornetto della mattina a colazione, che ovvio non deve diventare una normalità quotidiana, ma quella volta a settimana che lo voglio consumare, non ha nessuna differenza, non abbiamo nessuna differenza ed ha un valore nutrizionale diciamo così al pari di quello che possano essere tre fette biscottate con la marmellata. Non dobbiamo ovviamente mangiare solamente quattro biscotti, una colazione equilibrata prevede poi la porzione di yogurt, prevede la porzione di frutta, quindi non bisogna guardare il singolo alimento, ma come dicevo prima, il complesso dell'alimentazione. Autostrade Alto Adriatico al suo team di ispettori di ponti, cavalcavie e viadotti. Si tratta di 28 ingegneri specializzati e certificati in grado di valutare, raccogliere e catalogare una serie di dati sullo stato dell'arte dei manufatti che insistono lungo la rete di competenza della concessionaria autostradale. I tecnici hanno ottenuto la qualifica grazie a uno specifico corso di formazione inserito negli obblighi normativi derivanti dalle linee guida ponti che richiedono che le opere d'arte in gestione siano periodicamente ispezionate da personale di adeguata competenza. Gli spettacoli cresce l'attesa a Trieste per l'arrivo di uno degli spettacoli più iconici del circo più famoso del mondo, il Cirque du Soleil. Allegria in New Light arriverà in città con il suo grande tendone bianco il 13 giugno, già 20.000 biglietti venduti per il mese di repliche previste. È la prima volta per Trieste, per il Friuli Venezia Giulia nell'anno di Go 2025. Siamo andati al debutto nazionale a Roma, applauditissimo, con un red carpet pieno di VIP del mondo dello spettacolo. E non solo. L'universo magico del Cirque du Soleil è sbarcato e ha già incantato Roma, dove è andata in scena la prima nazionale del leggendario Allegria in a New Light, che sarà a Trieste con l'onirico Grand Chapiteau per un mese intero dal 13 giugno al 13 luglio prossimi. L'evento più atteso nell'anno di Go 2025, per la prima volta in regione con il teatro stabile del Friuli Venezia Giulia e Showbiz. Il grande tendone bianco da 2.400 posti, simbolo inconfondibile del circo più famoso al mondo, nato 40 anni fa in Canada, sorgerà nell'area del Silos, di fronte a Porto Vecchio. Alla prima romana, applauditissima, l'emozione dell'attesa, il foyer che si riempie, sulle magliette i nomi delle città che ospitano la tournée, da Londra a Parigi, passando per Trieste. Sul red carpet una folla di VIP, le foto con gli artisti, l'emozione di un ritorno tanto atteso. Gianmario Longoni, direttore artistico di Showbiz. Una follia due anni fa, dopo la pandemia, con Curious, e adesso siamo qua con Allegria, lo spettacolo simbolo di Cirque du Soleil. Da Roma, per poi andare a Milano, per poi andare a Trieste, è una cosa straordinaria. E lo spettacolo, appunto, un assalto di gioia, Allegria in spagnolo, che fa sognare il pubblico ad occhi aperti con scenografie spettacolari, acrobazie mozzafiato, clown dall'anima gentile, musiche dal vivo e due cantanti. E la celeberrima canzone Allegria, candidata ai Grammy per settimane in vetta alle classifiche. Una organizzazione imponente, quella targata Cirque du Soleil, 54 tra acrobati, performer, clown, musicisti e cantanti provenienti da 24 paesi. Un'esperienza unica, un capolavoro di poesie, di perfezione, di gioia e di allegria. Roma, Marinella Chirico, TGR Friuli Venezia Giulia. E siamo allo sport con lo sci nordico, alle battute conclusive mondiale di Trondheim in Norvegia. Oggi in programma la combinata nordica, la prova di salto da trampolino grande, si è disputata in mattinata con il tervisiano Raffaele Buzzi, 31esimo, e il carnico Alessandro Pittin, 46esimo. Alle 14.30 la gara di fondo sui 10 km. Ieri la tervisiana Martina Zanizer ha ottenuto un buono 33esimo posto nel salto da trampolino grande con una misura di 103 metri e mezzo. In gara anche le staffette nel fondo femminile, 4 per 7,5 km, nelle due tecniche, settima l'Italia che schierava in ultima frazione la carnica Martina di Centa, nella combinata nordica sesto posto per il quartetto azzurro che schierava Buzzi e Pittin. Per la pallanuoto in Serie 1 maschile, nell'ottava giornata di ritorno del campionato, la Pallanuoto Trieste giocherà contro la Rarinante Savona nella piscina Zanelli con inizio alle 18.30. I giuliani proseguono la rincorsa ai playoff scudetto, anche se dopo 9 vittorie nelle ultime 11 partite disputate, il calendario si fa in salita. In Serie 1 femminile, nella sesta giornata di ritorno del campionato, la Pallanuoto Trieste affronterà la SIS Roma nella piscina del Centro Federale di Ostia con inizio alle 18. La Pallamano Trieste festeggerà la recente promozione nella massima serie nell'incontro di campionato in programma questa sera alle 19 al Pala Chiarvola contro il Lanzara. Domani sulla terza rete andrà in onda diffusione nazionale la rubrica Est-Ovest curata dalla nostra redazione. Sentiamo allora di che cosa si occuperà. L'intervento di Trump sull'Ucraina, lo scontro con Zelensky e l'Europa che cerca una propria dimensione militare. In Serbia non si ferma il movimento degli studenti contro la corruzione e il pensiero dei giovani manifestanti. La produzione di treni e autobus elettrici in Polonia, vantaggi e incertezze della transizione verde. A Cipro un gruppo di archeologi, anche italiani, alle prese con il mistero di una donna murata viva più di 4.000 anni fa. Jim, film del regista sarajevese Srđan Vuletić, racconta come la misoginia condizioni la società bosniaca. Tutto questo è Est-Ovest, domenica alle 11:05 su Rai 3. È sempre domani, ma su queste frequenze radiofoniche andrà in onda alle 8:50 la consueta rubrica della Domenica Vita nei Campi, questi temi che saranno trattati nella nuova puntata. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, in onda la domenica alle 8:50 su Radio 1 Rai. Domani parlerà di un bando della regione a sostegno degli imprenditori agricoli che si dedicano ad attività di agriturismo. A seguire un racconto gastronomico religioso su un miracoloso pistun, polenta con erbe selvatiche. Poi il controllo bio e gentile dei parassiti che attaccano le orticole in serra. E ancora pomodori ibridi, come le compagnie sementiere hanno scalzato le vecchie varietà. Le relazioni complesse tra vino e ossigeno, amico o nemico a seconda delle tipologie, la foresta regionale Conte Cecconi, frutto della visione di questa interessante figura di ex operaio. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni meteo e il proverbio friulano della settimana. Appuntamento domani alle 8:50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli, Venezia Giulia. Qualche appuntamento prima di chiudere: il vescovo di Pordenone, Monsignor Giuseppe Pellegrini, interverrà all'inaugurazione della mostra fotografica Ulica Titova 29, che espone immagini di guerra, in inaugurazione a Pordenone, alla casa dello studente Zanussi, alle 17:30. Nisi Scele, la mostra a mercato di conchiglie, fossili e minerali da tutto il mondo, in calendario oggi e domani a Muggia, al centro commerciale Montedoro, con orario 9:30-18. A Trieste per tutta la giornata le donne potranno entrare gratis al Museo del Castello di Miramare, al Museo dell'Antartide, all'Immaginario Scientifico e al Museo della Bora. Collezionista e benefattrice a Trieste tra 800 e 900, il percorso sulle donne che hanno contribuito allo sviluppo dei musei locali, che si terrà al Museo Sartorio alle 15:30. Donne di roccia, il focus sull'alpinismo al femminile, che si terrà a Trieste al Castello di San Giusto alle 17. Lezza femminile, la visita guidata gratuita che si terrà nel Museo Triestino alle 17. Un racconto di clausura, una storia vera, e la visita guidata teatralizzata che racconta le storie di donne che hanno abitato il monastero di Santa Maria in Valle di Cividale, in programma alle 16. Ritratto di donne, melodie, l'iniziativa che a Gorizia prevede la visita guidata alla scoperta dei ritratti femminili di Palazzo Coronini Cromberg alle 17, a cui seguirà la lezione musicale a cura della Civica Orchestra di Fiati Giuseppe Verdi di Trieste alle 18. Un incontro di riflessione sul valore delle donne, in programma a Duina Urisina al bar Ai Sportivi di Borgo San Mauro alle 16. Per gli spettacoli Voci di Donna sull'orlo delle frontiere, seduzioni, trasgressioni, resistenze, la conferenza spettacolo con lo scrittore e docente friulano Angelo Floramo, accompagnato al canto da Tatiana Micheli, Paola Rossato e Maya Sara, che si terrà a Gorizia al Kulturni Dom alle 20. Donne che donne, lo spettacolo di e con Michela Vitali, che propone un viaggio nella storia dell'emancipazione femminile delle donne triestine dai primi del Novecento fino ai giorni nostri, a Monfalcone, all'oratorio Don Tonzara in via Romana alle 17. Miela by Air Mele, la mostra composta da 12 riproduzioni dell'artista triestina scomparsa nel 1972, Miela Reina, che verrà inaugurata dalla nipote dell'artista Lucia Budini e dalla storica dell'arte Paolo Pesante a Trieste, all'antico Caffè San Marco alle 18. Le opere resteranno esposte fino al 7 aprile. E prima di chiudere la notizia di servizio, il Comune di Trieste ha concesso un'occupazione temporanea di suolo pubblico per il tradizionale Luna Park primaverile, in programma ad oggi fino a domenica 13 aprile sul piazzale De Gasperi. Fino alle 24 di martedì 15 aprile è istituito il divieto di sosta e transito in piazzale delle Puglie. Ed è tutto per questo appuntamento con l'informazione, che è stato redatto e condotto da Maria Spezia e Giorgio Beerz, con la collaborazione tecnica di Eugenio Giuffrida e Mauro Cumin. Ha collaborato in redazione Samantha Gon. Grazie per l'attenzione e a tutti una buona giornata di 8 marzo, festa delle donne. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.